Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. La paura del Covid ha inferto un duro colpo alla prevenzione, ma dobbiamo assolutamente invertire questa tendenza. L'ottobre rosa, ad esempio, può diventare l'occasione per invitare le donne a riprendere regolarmente le visite e gli esami senologici. Ne parliamo oggi con il professor Paolo Veronesi, direttore della senologia chirurgica dell'OIEO e professore ordinario all'Università di Milano. Professor Veronesi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Effettivamente c'è stato uno stop alla prevenzione nella scorsa primavera, dovuta al fatto che tutti gli ospedali e tutti i centri diagnostici si dedicavano alla cura del virus, per cui sono stati fermati tutti i programmi di prevenzione, tutte le diagnostiche, tutte le ambulatorie per le patologie non urgenti. Questo è durato 2 mesi, poi in realtà c'è stato uno sblocco, parliamo di maggio, giugno e dopo, e però ancora oggi abbiamo osservato che c'è stato un calo nelle visite e negli esami di prevenzione. Gli screening hanno rallentato e questo che cosa comporta? Che sono stati diagnosticati un numero molto inferiore di tumori, parliamo di mammella ma anche di altri casi, ma questo naturalmente non vuol dire che i tumori non ci siano, siano improvvisamente scomparsi, vuol dire che saranno diagnosticati in una fase successiva quando la curabilità sicuramente è inferiore. Professor Veronesi, mi dia 3 buone ragioni allora per non rimandare i controlli di prevenzione. Ma la prima ragione naturalmente è che ancora oggi la diagnosi precoce è quella che ti può salvare la vita, perché un tumore diagnosticato e curato in fase preclinica può avere una guaribilità superiore al 95%, quindi quasi la certezza di guarire se facciamo la diagnosi strumentale come mammografia e ecografia prima che il tumore si manifesti. Poi direi che oggi gli ospedali sono dei luoghi assolutamente sicuri, centri diagnostici, abbiamo percorsi dedicati Covid free in cui non si corrono assolutamente rischi e tutto il personale è testato continuamente e quindi c'è la massima sicurezza nel fare le diagnosi. Terza ragione è che non possiamo davvero socialmente prenderci questo rischio di avere poi una quantità di persone con tumori avanzati da curare, perché questo provoca dei danni alla società e alle singole persone. Grazie professor Veronesi per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie Nicoletta. Bene, per oggi è tutto, come ogni giorno vi ricordo l'appuntamento video sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Oggi vi propongo una lezione di allenamento mentale. Non mancate, una buona giornata da Nicoletta. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con SuperSite. Su Aruba.it.